Radio. Ma siamo noi che ce ne freghiamo. L'artista, l'artista è quello di te. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista e ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squappi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no, e Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo! Bella ragazzi, siamo quelli del Rebel Web Radio. Buongiorno a tutti, sono il presidente e oggi ci troviamo qui in questa bellissima giornata di Olé Festival, in questo nuovo formato digitale, elettronico, non so come volete chiamarlo. Io sono qua in compagnia di tutti i miei colleghi, ci sono diversi personaggi che conoscerete piano piano. Intanto ringraziamo il nostro sacrestano per quella bellissima introduzione che ci ha appena fatto. Prego, presidente. Bella, grazie a te. Ciao, ciao, come va? E guarda, io soltanto volevo dire una cosa. Approfittando che è domenica e non tutti siamo riusciti ad andare a messa, facciamo una cosa, ve la portiamo noi a voi, però fate a stile nostro, così imparate un attimino quali sono le nostre dottrine, qual è il nostro stile e qual è il motivo per il quale noi abbiamo creato tutta questa situazione che si chiama Rebel Web Radio. Mi sembra un'idea geniale. Dai, allora senza rigirarvi troppo vi mando subito in compagnia della nostra programmazione. Esatto, e partiamo con un po' di techno, no? Vi Dai, piace la casa dritta? Bam! Buongiorno a tutti cari amici di Olé Festival e di Radio Spore. Io sono la Perpetua e sono uno degli spiriti guida di Rebel Web Radio. Come tutti sapete, Perpetua è un nome di manzoniana memoria, infatti nei Promessi Sposi Perpetua è la donna di servizio di Don Abbondio, nonché la sua personale consigliera. Perpetua deriva dal latino perpetus, ovvero eterno, imperituro, che procede in modo costante, come la fede, l'anima, l'arte e la musica. Qui a Rebel Web Radio è scesa su di me la divina funzione di Perpetua. Attraverso le onde radio soffierò su di voi il sacro spirito della musica. Sarò la vostra personale consigliera e vi aiuterò a mantenere sempre la saldezza in questa fede celeste. Mi prendo anche cura del nostro prete di Rebel Web Radio, che in questo momento si sta preparando alla celebrazione di questa speciale messa sonora di oggi. Come sei messo, prete? Ci siamo, Perpetua. E avrei solo bisogno della mia tunica viola. E te la passo subito, rigorosamente viola per il nostro prete. Sì, nonostante l'iconografia cristiana la colleghi alla Pasqua, la nostra religione è molto più contemporanea e moderna. E, diciamo che questi colori mi serviranno per mettermi in connessione con il nostro spirito guida, il Dio Rob, il quale verbo porterò fedelmente a tutti voi. Bene, perfetto. Preparami e prepara i nostri ascoltatori per una connessione metafisica con il nostro Dio. Cosa ci fai ascoltare oggi? Bene, caro prete, che sei quasi pronto. Io nel nome del Dio Rob vi accompagno in questa meditazione propedeutica al rito messianico che sta per iniziare con una delle mie cosiddette psichedelizie. Come il nome lascia intuire, il mio scopo è quello di propagare nell'etere delle delizie per la psiche di voi fedeli ascoltatori. Mi prenderò cura della vostra purificazione spirituale, facendovi discendere nel vostro inconscio più profondo tramite un viaggio onirico di vortici musicali psichedelici, suoni desertici, ritmi tribali ossessivi, chitarre distorte e magici sitar. Vi lascio allora con un brano che vi serva da rituale esoterico per alterare i vostri sensi, sciogliervi i nervi e scaldarvi il cuore. Inauguriamo questa messa con un ronzio d'amore per tutti voi. Love Buzz. Radio Rebel, Rebel Web Radio. Ciao baby, questa è la frequenza dei tuoi sogni più reconditi, amore e odio nella loro forma più pura. Questo è il suono dell'onda ribelle. Stazione web multidirezionale, multinazionale, multiplayer, multiraziale e multinato, polifunzionale, polivalente, politeista e politopene in stanza. Nasce dalla fusione tra l'inchiostro della cattedrale dei ribelli discepoli tatuatori nel nome del dio Rob, la pelle scripolata dei ferati pirati del relitto dell'abbazia vibrida recuperati dalla loro isola tropicale grazie alla mano lesta latina d'artigiano del presidente. Tatuaggi punk, vibrazioni pink e ragazze tank. Move your ass. Escucha Radio Rebel. Rebel Web Radio. That flame burning, baby. Yeah, you gotta keep that flame burning forever, baby. Dream, baby, dream. Yeah, come on, baby, keep that dream burning. Yeah, forever and ever, forever and ever. Radio Rebel, Rebel Web Radio, Rebel Web Radio. Radio stessa onda esplosa l'onda rimasta su un traumatico attico, impolverata polveriera, rifugio di piccioni, dinamite, schiumose psicoescursioni, bettola ipnotica, subdola e androgena, sfaso per svago, monnezza in un vaso, innocente rimedio di un mondo persuaso, sfocato grido fioco di un coltello sul fuoco, stupro neuroanale di un grottesco piano astrale, esasperazione omnidirezionale di ogni orifizio epidermidale. Ma che cazzo stiamo facendo? Arrotare una banconota o un secchio di cemento? Sesso a cinque, ossicodone, gli ego più storti in un buon minestrone, sfoghi embolici col batter di attrezzi o spasmi creativi al suono di arpeggi. L'onda rotonda spara la fionda, paranoia e gli esergici vortici. La nuda realtà in scale sottili, chiocciole truci di contrasti di luci, scalibro drastico, squilibrio sul lastrico, cicatrici sgranate di manieme rettrici, simboli solidi di fremiti impavidi in deliri neurocospirazionisti, tripiti strippi, pipiti strappi, flussi elettronici su rumori sinfonici, gridi armonici, croste calde di graffi erotici, liquori gastrici amari, languori aromatici, amori dialettici, amici emblematici, l'onda in pezzi di specchi, cancro feticcio che mangia i neuroni, virus virtuoso che brama ogni scarto, e da un certo punto arriva lo sfratto. Signore e signori, fedeli ascoltatori, questa lettura deve essere d'esempio a tutti quanti. Per quanto fedele al suo obiettivo, al principio dell'estetica di un'arte emblematica, di un'espressione meretrice, di confusione e sofferenza. Beh, in una vita che ci mette davanti a tutte queste torture, come non combattere e scegliere di entrare in un'avventura? Bene, fedeli miei, questo vi sto chiedendo: siate ribelli, trovate la fede e diffondete l'amore. Nel nome del Dio Rob, scambiatevi un pegno di pace. Follow the balloons, they play a tune just for you. I'm in love. I'm in love. I'm so in love. I'm in love. You can't even buy a burger for that. Not in this day and age. If we all chip here, maybe we can buy her 1,000 burgers. That'll keep her nice and fat. Nice and fat. Nice and fat. Nice and fat. I'm in love. Love. I'm so in love. I'm in love. Questa è la tua. Quello che possiamo avere. Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Rebel Sì, mi pare che abbiamo sintonizzato la radio sbagliata. Proviamo a sintonizzarci nelle frequenze di RAB. E adesso, come in ogni messa che si rispetti, siamo giunti al momento dell'Eucaristia, in cui anche voi potete prendere parte al rito, mangiare l'ostia e fare la comunione. Io ho assunto il mio ruolo di chierichetta e vi prenderò per mano e vi accompagnerò in questa sacra funzione. Per partecipare al rito, vi invito prima di tutto a farvi tutti più vicini. Entrate in comunione con il vostro potere erotico, spirituale e politico, che è già in voi. La sexy cabala è sempre accesa per consigli, coccole e chiacchiere, interpretazione di sogni e numerologia spicciola. Ricordate le parole di Rob quando diceva: questo è il mio corpo ed è per voi. Le mie scelte musicali cercheranno di mantenere sempre alto il ruolo della femminilità e di tutti i femminismi. Do you wanna disco? He took the bomb. Rebel, Web Radio. Rebel, Web Let me Web Radio. Ed ecco a voi, fedelissimi ascoltatori, il Sacrestano. Il Sacrestano si prenderà cura delle vostre orecchie in quanto moderatore, mastro di cappella, organista e gestore del ritmo radiofonico qui su Rebel Web Radio. Ho conosciuto Rob negli anni 70 nella foresta amazzonica. Durante un viaggio di ayahuasca egli mi affidò questo ruolo, ovvero direttore d'orchestra e custode del ritmo. Durante le mie ore di trasmissione avremo interviste, barzellette e addirittura ricette di cucina orientale. Ma la parte più importante di tutto questo e delle mie rubriche sarà ovviamente la musica di qualità. Grandissimi tutti quanti ragazzi, approfitto questi ultimi secondi per ringraziare a nome di Rebel Web Radio. Per noi è stato un onore e un privilegio, direi, l'aver potuto far parte di tutto questo. Ci siamo stradivertiti, spero che sia stato così anche per voi. Grazie ancora a tutta la combricola di Radio Spore, Ole Festival e ovviamente alla gente di XM24. Che viva XM24, che viva sempre. Un saluto poi a chi ci ascolta e a chi non, e ai nostri carissimi compagni dello studio di Rebel Link per il supporto, e a nome del nostro prete, il nostro sacrestano, il tecnico con la K, la doppia K, la chierichetta e la perpetua, vi salutiamo e vi ricordiamo, stay radio, stay rebel. 1, 2, 6, 9!